Maria Paiato legge Gli ultimi anni di Clelia Trotti, di Giorgio Bassani. Quinta puntata. Erano ben molti anni che non mi capitava di rileggere il comunicato del 4 novembre 1918, disse Clelia Trotti, prima ancora di dargli la mano e accennando col mento alla lapide. Dovevo proprio venire qui perché succedesse. Si affacciarono, affiancati, al finestrone che dava sul giardino interno. Sui suoi stenti alberetti gremiti nel sole primaverile di passeri cinguettanti e appoggiarono i gomiti alla ringhiera di ferro. «Che bella stagione, non è vero?» soggiunse la maestra, guardando verso la rossa distesa dei tetti che si apriva dinanzi a loro, di là dal muro di cinta del giardino. «Bellissima!» La osservò con la coda dell'occhio. Si era assettata con cura. La cipria se l'era data perfino sul collo. «Ci si sente davvero rivivere», riprese lei, socchiudendo le palpebre al riverbero. E poi, dopo una pausa, ma sempre con una specie di gioia, di ilarità interiore, «come avevamo ragione, noi altri socialisti, sebbene, a dire la verità, non pochi anche allora la pensassimo diversamente, di sentire nelle campane che salutavano la vittoria italiana del 18 le nostre campane a morto. Le valli che avevano disceso con orgogliosa sicurezza. Che tono! C'era già dentro il fascismo, la burbanzosa retorica di questi ultimi 20 anni. Ad un tratto, muovendo dal fondo stagnante della propria amarezza, sorse violento in Bruno il desiderio di ferirla, di farle del male. «Perché vuole illudersi?» proruppe. «Perché insiste a prendersi in giro? Come lei sa, a Ferrara noi ebrei eravamo tutti, o quasi, niente altro che dei borghesi. Dico eravamo, giacché adesso, e forse è meglio che sia così, non apparteniamo più a nessuna classe, facciamo come nel Medioevo, gruppo a parte. Eravamo quasi tutti commercianti al minuto e all'ingrosso, professionisti vari, proprietari di terre, e dunque, lei mi insegna, quasi tutti fascisti, per forza. Lei non può immaginarlo quanti siano rimasti anche oggi fra noi gli ardenti patrioti. Vuol dire i nazionalisti?» corresse gentilmente Clelia Trotti. «Li chiami pure come vuole. Mio padre, per esempio, andò a combattere sul Carso da volontario. Nel 19, di ritorno dal fronte, si imbatté per istrada in un corteo di operai che, scorgendolo in divisa da ufficiale, lo coprirono letteralmente di sputi. Oggi si capisce, fascista non lo è più, nonostante che sia stata proprio la sua tessera del 22 a valerci la discriminazione. Anche lui non pensa che alla patria palestinese, ormai. Eppure non giurerei che la prosa del generale Diaz, la quale continua a fare tanto colpo sulle fantasie della maggior parte dei miei, come debbo chiamarli, dei miei correligionari, abbia smesso del tutto di far colpo anche sulla sua di fantasia. Quello che lei dice a me sembra molto naturale», proferì calma Clelia Trotti. «Si spiega benissimo». Non pareva affatto delusa, ma semmai di nuovo rattristata. Sospirò. «La prima guerra mondiale è stata una gran rovina», disse. «Quanti errori anche noi ci ha indotto a commettere. Comunque sia, lei mi sembra troppo pessimista. Va bene, in linea generale forse lei ha ragione. Perché non tiene conto anche di se stesso, però? Lei è diverso, non è come gli altri. E il suo esempio è più che sufficiente per dimostrare che qualsiasi regola ha, se Dio vuole, le sue eccezioni. E poi lei è giovane, ha l'intera vita davanti, e per i giovani come lei, cresciuti sotto il fascismo, c'è tanto da fare». A sentire Clelia Trotti adoperare le medesime frasi di suo padre, Bruno rialzò il capo. Si era di nuovo voltata a guardare fuori dalla finestra. Il futuro che vedeva stava laggiù, dove le ultime case di Ferrara, di un tetro color ruggine, cedevano in direzione del mare al verde azzurro della campagna sterminata. Di lì a qualche mese, anche l'Italia fascista si decise a scendere in lizza. «Finalmente!» esclamò gioiosa e trafelata Clelia Trotti la sera stessa del 10 giugno, entrando nello studio di Via Madama. «Finalmente!» ripeté, mentre si lasciava cadere nella poltrona. Abbandonò la nuca contro la spalliera di velluto verde e chiuse gli occhi. Non era la prima volta che, approfittando dell'oscuramento e sfidando ogni divieto, veniva a trovare Bruno. Ma l'eccitazione che le avevano dato fin da principio queste visite clandestine non accennava a scemare di intensità. Quando il respiro le si fu calmato, disse subito che il fascismo, con quel gesto pazzesco di uscire dalla cobelligeranza, non aveva fatto altro che decretare la propria rovina. «Ne era certa», affermò. E cominciò a spiegare con foga e calore straordinari come mai fosse così sicura del suo pronostico. Bruno la fissava in silenzio. La sua buona fede era perfetta, si diceva. Nessuno avrebbe avuto il diritto di dubitarne. Eppure, perché non riconoscerlo? Non brillava nei suoi occhi soprattutto la certezza che lui, adesso che uscire dall'Italia era diventato davvero impossibile, ormai non avrebbe più potuto sottrarsi al compito che lei, in cuor suo, gli aveva assegnato, né insomma sfuggirle di mano come aveva temuto fino a ieri. C'era questo, indubbiamente. Anche se poi, dall'espressione che già assumeva la sua bocca, tenera e al tempo stesso scettica, risultasse chiarissimo come fosse lei la prima, lei che poteva essere sua madre, a vietarsi qualsiasi confronto fra il ragazzo che le stava davanti e Mauro Bottecchiari, il compagno della sua gioventù, al quale l'entrata in guerra dell'Italia aveva suggerito il pretesto politico, nel lontano 1915, per piantarla e liberarsi. In un primo tempo, i convegni nello studio a Pianterreno si rinnovarono abbastanza frequenti. Tutto succedeva per gioco, naturalmente. Il tipico gioco intriso di amarezza e di assenza, d'uso comune nelle prigioni. Rientrando in esso, e Bruno un po' se ne compiaceva, anche quell'aria di sotterfugio erotico che assumevano per forza i loro incontri. Sempre dopo cena, con i ritardi di tanto in tanto di lei, con le attese consumate a leggere un libro o a preparare qualche lezione, e specialmente col lieve, complice urto contro la persiana da fuori, che a un dato punto lo faceva trasalire. Non appena entrata, Clelia Trotti andava a sedersi in poltrona, ma certe volte, senza nemmeno levarsi i guanti di filo grigio, ad onta del caldo che le faceva grondare di sudore la fronte, il cappellino non se lo tolse mai. Certe volte si rialzava subito, diretta verso uno dei quattro scaffali disposti in simmetria lungo i lati minori dello studio, e rimanendo poi là, col naso incollato ai vetri. Nel suo astenersi dall'aprire gli sportelli degli scaffali, appariva evidente una sorta di puntiglio. Si limitava a scrutare oltre le lastre, aiutandosi a leggere i titoli dei libri con un occhialetto che tirava fuori dalla sua grossa borsa di pelle nera. «Perché non ne porta via qualcuno?» la incoraggiava Bruno, da dietro il tavolo ingombro di carte. «Glieli presto volentieri!» Scuoteva il capo. Con tutte le lezioni che le toccava dare, non avrebbe avuto il tempo di leggerli. «Del resto, la mia cultura è talmente antiquata», si confidò una sera, «che per aggiornarla dovrei fare uno sforzo superiore alle mie possibilità. Per esempio, ho sempre desiderato leggere qualche volume di Benedetto Croce, non so, magari qualcuno dei suoi lavori meno astrusi, quelli storici». Di anno in anno rimandavo, un po' pensando a mia sorella Giovanna, che se le facevo trovare per casa della roba del genere, immaginarsi la paura che avrebbe preso, poveretta, e un po' anche per un residuo di diffidenza socialista. Così sono passati i decenni e adesso eccoci qua, che non ne vale più la pena. Da ragazza ero molto appassionata di filosofia. A quell'epoca andavano i Conte, gli Spencer, gli Ardigò. Sorrise. Quindi, con un'ombra di timidezza negli occhi, lei invece le conosce molto bene le opere del Croce, eh? Era un'allusione a quanto Bruno stesso, pentendosene subito dopo, non si era potuto trattenere una volta dal dichiararle. Al fatto cioè che lui non era socialista e che con ogni probabilità non lo sarebbe stato mai. Ma più forte di ogni dolore, di ogni rimpianto per non essere all'altezza di insegnargli niente, la consolava senza dubbio la persuasione che proprio questo era giusto e opportuno. Che lui non fosse socialista, appunto, bensì qualcosa di diverso, di nuovo. Il futuro, gli anni che attendevano l'Italia e il mondo di là dalla guerra ancora agli inizi, anni a cui si sarebbe approdati dopo aver pagato chissà quale scotto di sangue e di lacrime, non avrebbero saputo cosa farsene di loro, socialisti della vecchia scuola. Siamo dei vecchioni, noi altri, dei poveri ferri vecchi, era solita dire. Ed era intanto come se affermasse che domani, al posto di loro, ci sarebbe stato bisogno di giovani come lui, Bruno, i quali fossero socialisti senza esserlo. Soltanto così sarebbe stato possibile, quando fosse arrivato il momento, dare del filo da torcere ai comunisti, i quali, sebbene fossero dei giganti, ciò non di meno anche loro, soprattutto nei metodi, appartenevano ormai al passato. Verso la fine di settembre, improvvisamente, l'ovra si fece viva. Un giorno, sull'imbrunire, un agente in borghese della squadra politica venne a domandare se la signora Trotti si trovava nella sua abitazione. Senza fiato, la Codecà rispose che sua sorella era in casa, ma l'agitazione della donna dovette mettere in sospetto la guardia, che non volle andarsene prima di essersi sincerata coi propri occhi, pur se con mille scuse, che tutto fosse in regola. Non ci si poteva più fidare. Nel timore che l'imprevisto risveglio della polizia preannunciasse un inasprimento del regime di controllo degli ammoniti, Clelia Trotti decise di rinunciare per qualche tempo alle sue scappate notturne. Con Bruno, al caso, si sarebbero visti di giorno ed evitando naturalmente di valersi dello studio di via Madama. Ogni tanto, dunque, sebbene non con la stessa frequenza di prima e servendosi per combinare gli appuntamenti del tramite di Rovigatti, il quale, geloso della Trotti, si prestava malvolentieri, cominciarono a incontrarsi in piazza della Certosa. Dal suo punto di vista Rovigatti non aveva torto, pensava Bruno. Che cosa avevano da dire o da fare insieme lui e Clelia Trotti che mettesse in conto di rischiare come rischiavano? Non è che loro due si vedessero, come insinuava Rovigatti, soltanto per parlare di Radio Londra e del colonnello Stevens, questo no. Ma con l'aria che tirava, valeva davvero la pena di stuzzicare la polizia? Provò a riferire alla maestra i commenti del ciabattino, cercando anche di giustificarli blandamente. Inutile. Ogni volta che tornava sull'argomento, l'altra si stringeva nelle spalle infastidita. «Uff, che noioso!» sbuffava. «Povero Cesarino!» rise una sera. «E non era mai stata così giovane. Fa così perché mi vuole bene. Lo sa da quando è che ci conosciamo?» «Da prima di quell'altra guerra, immagino.» «Da molto prima, fino dalle elementari. Stavamo di casa tutti e due in vicolo del Gregorio. Allora l'avvocato Bottecchiari lo ha conosciuto parecchio dopo.» «Molto dopo», rispose asciutta. E lo guardava non senza ironia, più che mai giovane. Nei luminosi, tardi pomeriggi di settembre, il vasto prato davanti alla chiesa di San Cristoforo era gremito come sempre durante la bella stagione di bambini, di balie, di coppie di fidanzati. Bruno Lattes e Clelia Trotti parlavano stando seduti vicini, sul bordo del sagrato per lo più, o anche nell'erba, nel margine d'ombra che col calare del sole veniva crescendo lentamente presso l'estremità meridionale del porticato, dalla parte di via Borso. «Bello, non le pare?» diceva la Trotti, gli occhi rivolti alla piazza. «Non sembra nemmeno di trovarsi al cimitero». «Io, vede», disse una volta, «non ho mai capito per quale motivo i morti debbano essere tenuti segregati come usa da noi, che per visitarli a momenti ci vuole il permesso come per entrare nelle prigioni. Napoleone fu senz'altro un grand'uomo, perché impose all'Europa ed anche all'Italia, attraverso la nostra Cisalpina, le conquiste democratiche e sociali della rivoluzione. Quanto però al suo famoso editto sui cimiteri, rimango della stessa opinione dell'autore dei sepolcri. Ci crede? A me piacerebbe che mi seppellissero proprio qua fuori, in questo bel prato, con tutto attorno questo continuo rumore di vita, anche se ciò dovesse costarmi la scomunica perpetua». Si mise a ridere. «Non è che un sogno, lo so», aggiunse subito, «un pio desiderio destinato a non tradursi in realtà. A parte infatti qualche anno di galera, qualche altro di confino e adesso di libertà vigilata, che cosa ho combinato di tanto importante io nella vita per meritarmi una tomba fra gli illustri, sia pure eretici, della nostra città? Non ho preso neppure le botte, si figuri. Con me i fascisti furono più delicati. Si limitarono, nel 22, mentre uscivo dalla scuola elementare Umberto I di via Bersaglieri del Po, a farmi bere una mezza oncia di olio di ricino e a ricoprirmi la faccia di nero fumo. E poi, se non era per i bambini che stavano lì a guardare e molti piangevano di paura, a me la cosa non sarebbe dispiaciuta neanche tanto, glielo garantisco. Non c'era mica bisogno di venire in 20 o 30 con randelli, pugnali, teste di morto sui berretti, eccetera, per avere ragione di una donna sola. Bella forza. Stavo ancora mandando giù il mio bravo olio e già sapevo che le camicie nere si sarebbero tirate addosso la disapprovazione generale». Ma il tema preferito dei suoi discorsi restava quello del suo passato di detenuta e confinata politica. «Il carcere è una vera scuola», disse un'altra sera, accendendo una macedonia dal mozzicone della precedente. «Un vizio, questo», spiegò, «che le si era attaccato appunto in carcere. A patto, tuttavia, che non duri troppo e che non spezzi o infiacchisca la fibra. Per conto mio, sono grata al destino di non avermene risparmiata la prova. La solitudine, il raccoglimento, il non aver presente che la compagnia di noi stessi sono cose benefiche. E conoscere se stessi, lottare contro le proprie tendenze e uscirne qualche volta vincitori, non può succedere che fra le quattro mura di una cella. Quando io venni fuori dal carcere nel 30, lasciai il mio numero 36. La vede la coincidenza? Lo stesso numero della casa di mia sorella. Con vera malinconia. Come se ci abbandonassi una parte di me stessa. Ogni parete, ogni angolo, ogni più piccola cosa portavano la traccia del dolore. La verità è che i luoghi dove si è pianto, dove si è sofferto e dove si trovarono molte risorse interne per sperare e resistere sono proprio quelli a cui ci si affeziona di più. Guardi lei, per esempio. Poteva andarsene via come tanti suoi correligionari e dopo ciò che ha dovuto subire ne aveva tutti i diritti. Ma la sua scelta è stata un'altra. Ha preferito restare qui, a lottare e a soffrire. E adesso questa terra, questa vecchia città dove è nato, dove è cresciuto e si è fatto uomo, sono diventate doppiamente sue. Lei non le abbandonerà mai più. Finiva sempre così. Pur avendo cominciato, al solito, a raccontare di sé e della propria vita, ben presto tornava su Bruno e su quella che riteneva dovesse essere la sua attività nell'immediato avvenire. Per lui stava preparando da tempo fruttuosi contatti con i principali esponenti dell'antifascismo cittadino, diceva, e anzi, proprio per questo, aveva già dato incarico a Rovigatti di preannunciare in giro le sue prossime visite. I primi che avrebbe dovuto avvicinare erano certamente i socialisti, ma attenzione, il notaio Licci, un massimalista parecchio amareggiato e scorbutico, quello no. Meglio lasciarlo cuocere ancora per un poco nel suo brodo, in attesa che fosse lui a scuotersi l'accidia di dosso e a ricercare le antiche amicizie. Bisognava che prima vedesse gli avvocati Baruffaldi, Polenghi e Tamagnini, tutti e tre riformisti, tutti e tre smaniosi di agire, e che quindi, tornando dall'avvocato Bottecchiari, cercasse di agganciare suo nipote, Nino, entrato da 6 o 7 mesi nello studio dello zio come praticante. Si trattava di un giovane indubbiamente molto sveglio e capace, visto che aveva saputo imporsi perfino nel GUF, dove aveva svolto per un paio di anni mansioni di notevole importanza, e che urgeva contattare, era chiaro, pena altrimenti di ritrovarlo un giorno o l'altro affascinato da qualche nuova sirena totalitaria. Ma poi, oltre ai socialisti, era necessario che conoscesse i repubblicani storici, come il dentista Canella, il sarto Squarcia, il farmacista Riccoboni. Anche questi negli ultimi tempi avevano dato segni non equivoci di voler muoversi e di essere pronti, in nome dei comuni obiettivi di lotta, a dimenticare gli eterni rancori e pregiudizi antisocialisti. Riguardo ai cattolici, il loro ambiente, simile in questo a quello comunista, rimaneva un mondo un po' a sé. Non era facile entrarci. Tuttavia, l'avvocato Galassi Tarabini, almeno lui, era tipo notevolmente aperto. Già intimo sia del conte Grosoli sia di Don Sturzo, avversato dai clerico fascisti di quando Pio XI esaltava Mussolini al punto di definirlo l'uomo della provvidenza. Ecco, una brava persona, e sì, da non trascurare in nessun modo. E altrettanto occorreva dire dell'ingegner Sears, un liberale piuttosto a destra ma gran galantuomo, e del dottor Herzen, acceso sionista, d'accordo, ma forse recuperabile alla causa dell'antifascismo italiano, specie se fosse stato abbordato da un israelita. Avrebbe dovuto infine incontrarsi con Alfio Mori, l'amico e in qualche modo discepolo di Antonio Gramsci. Si erano conosciuti in galera. La persona di cui si raccontava che il compagno Ercoli, ogni qualvolta rientrava segretamente dall'Unione Sovietica, ascoltasse più volentieri il consiglio. Mori era il più importante di tutti e, come tale, anche il più sorvegliato. Doveva sempre operare con estrema prudenza. Per esempio, si fissava un appuntamento e Mori non ci veniva. Se ne fissava un secondo e Mori di nuovo mancava. Soltanto al quinto, al sesto appuntamento successivo, si decideva finalmente a comparire. Era indispensabile armarsi di pazienza, insomma. E se lui, Bruno, ne avesse avuta, chissà che a lei non riuscisse di combinargli un colloquio anche con Mori. Parlava, parlava. Le ombre delle stele e dei cippi funerari si allungavano lentamente nell'erba. Il prato a poco si spopolava. Qualche coppia di innamorati prendeva la via dei bastioni. Una sera, Bruno stava sdraiato come d'abitudine ai piedi di Clelia Trotti. Mentre ascoltava senza troppa attenzione ciò che la maestra veniva dicendo, a un certo punto notò, a una 20ina di metri di distanza, un ragazzo biondo, alto, snello, appoggiato alla canna di una bicicletta. Il capo immerso nei fogli rosa del giornale aveva tutta l'aria di stare aspettando qualcuno. Ed ecco, infatti, dal fondo della piazza, sopraggiungere quasi di corsa una fanciulla, anche lei bionda e molto bella, la quale, pur continuando a inoltrarsi nel prato, ogni 3 o 4 passi si girava a guardare dalla parte di via Borso, come se temesse di essere inseguita. Ma non era vero, naturalmente. Recitava. Una volta raggiunto l'amico, fu la prima, da brava attrice, a lasciarsi scivolare nell'erba, dandosi subito a disporre attorno alle gambe, con rapidi e graziosi gesti di una mano, la gonna di lana bianca pieghettata. Con l'altra mano, intanto, costringeva affettuosamente il ragazzo rimasto in piedi a sederlesi a fianco. Ormai i due stavano vicini, seduti di spalle presso la bicicletta. Le loro giovani teste si erano accostate fino a toccarsi. Penetrati dalla dolcezza dell'aria, vaghi di quel semplice sfiorarsi dei loro corpi, sembrava che non scambiassero parola. «Chi sono? Come si chiamano?» si chiedeva Bruno, mentre la voce di Clelia Trotti, al suo orecchio, suonava lontana, un ronzio incomprensibile. I loro nomi non li ricordava. Di una cosa però era sicuro: che fossero studenti, forse del liceo classico, e che entrambi appartenessero alla migliore borghesia della città. Passarono circa 10 minuti. A un tratto Bruno vide il ragazzo muoversi. Si era rimesso in piedi, aveva raccolto con calma la bicicletta e quindi pigliato l'amica da un polso. Facendosi tirar su quasi di peso, lei rideva adesso, con pigra civetteria, il collo rovesciato tutto quanto all'indietro. Cominciarono ad allontanarsi in direzione delle mura, attraversando obliquamente il prato. «Perché non arriviamo anche noi fino lassù?» disse Bruno. Protendendo il braccio sinistro, accennava alla mura degli angeli, ancora piena di sole. «Ma è tardi, ho paura che non faremo a tempo», rispose Clelia Trotti, interrotta a metà di una frase. «Lo sa bene che devo ritirarmi con le galline. Per una volta, cosa sarà? Vedremo un magnifico tramonto». Si era già levato. Le allungò una mano per aiutarla ad alzarsi, quindi si avviarono. La giovane coppia procedeva con una 50 metri di vantaggio. Il ragazzo era montato in sella e di tanto in tanto, per reggersi in equilibrio, allacciava col braccio destro le spalle della compagna. Bruno non si saziava di guardarli. «Chi sono? Come si chiamano?» continuava a mormorare fra i denti. Più che belli, gli apparivano meravigliosi, irraggiungibili. Eccoli dunque là, i campioni, i prototipi della razza, si diceva con odio e amore disperati, socchiudendo le palpebre. Il loro sangue era migliore del suo, la loro anima migliore della sua. Se non si ingannava, i capelli della fanciulla erano legati dietro da un nastro rosso e la poca luce residua sembrava raccogliersi interamente su quel nastro. Oh, essere con loro, dei loro, nonostante tutto. Ho fatto bene a darle retta. Dalla cima della mura potremmo gustarci un tramonto davvero straordinario, disse tranquilla Clelia Trotti. Bruno si volse. Dunque, non aveva visto niente. Una volta di più, non si era accorta di niente. E adesso, di nuovo, aveva ripreso a parlare, come tra sé, come inseguendo un suo sogno, perduta, come sempre, nel suo solitario, eterno vaneggiamento da reclusa. Rabbrividì. Un giorno, forse, lei avrebbe capito chi era Bruno Lattes, pensò poi, tornando a guardare davanti a sé. Ma quel giorno, seppur potesse mai arrivare, era certamente molto lontano ancora. Maria Paiato ha letto Gli ultimi anni di Clelia Trotti, di Giorgio Bassani. A cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante, Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Regia di Luigi Iavarone. Per scaricare e riascoltare il programma, radio3.rai.it.